Fabbrica 2.4. Viaggio nell'industria che cambia, di Filippo Astone. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Acciaio, acciaio, acciaio. Avete infatti appena ascoltato un frame di Acciaio, un film del 1933 girato dal tedesco Walter Ruttmann e ambientato nell'acciaieria di Terni, che già allora avevano un ruolo centrale nell'economia italiana. La trama, scritta, pensate un po', da Luigi Pirandello, ruota attorno alle vicende di due operai, Mario e Pietro, che si contendono i favori della stessa donna, Gina. Ma c'è un quarto protagonista, che sono proprio le acciaierie di Terni, ritratte con un impeccabile stile documentaristico proprio da Ruttmann, che per rendere il documentario più interessante, per fare in modo che l'attenzione non venga mai meno, si era fatto scrivere la colonna sonora da Giampiero Malipiero, che era una rockstar del tempo, anche se oggi lo ricordiamo come un compositore di musica classica. Ecco, il quarto protagonista, oltre a Mario e Pietro, sono le acciaierie di Terni, che però non è che facciano una gran bella figura, sono un po' il cattivo della storia, sono sporche, fanno male, inquinano e soprattutto uccidono, perché nel film a un certo punto c'è un incidente mortale del quale uno dei protagonisti viene accusato. Adesso il mondo dell'acciaio, e anche dell'acciaio a Terni, è cambiato radicalmente rispetto ad allora. È un mondo pulito, è un mondo dove non ci sono più incidenti sul lavoro, è un mondo molto automatizzato, è un mondo che sembra sempre di più una sorta di laboratorio in bianco. Che cosa resta di ugualmente importante? Il ruolo dell'acciaio non solo nell'economia, ma anche nella nostra vita. Quasi tutto quello che ci circonda è fatto da acciaio in varie forme. Le automobili, le case, gli elettrodomestici, le pentole, i computer contengono acciaio. Noi abbiamo acciaio dappertutto e questo è il motivo per cui è importante che venga assicurata la produzione. Tutto questo ce lo racconta l'amministratore delegato delle acciaierie di Terni oggi, Acciai Speciali Terni, che è Massimiliano Burelli. Buongiorno. Buongiorno a lei e buongiorno agli spettatori. Oltretutto ci dà anche una buona notizia, perché gli Acciai Speciali di Terni è un'azienda che ha vissuto negli anni, voi ricorderete i telegiornali e quant'altro, delle vicissitudini non positive. Si temeva addirittura che chiudessero e ci sono stati anche vari passaggi di proprietà. Che cosa ci viene a raccontare Burelli? Ci viene a raccontare che hanno raggiunto l'utile netto nell'ultimo esercizio, giusto? Giustissimo, ed è con estremo piacere che posso commentare questo importante obiettivo. Allora, 1,43 miliardi di fatturato e 3,3 milioni di utile netto. Sì, 3,3 milioni di utile netto, che possono sembrare poco, ma arrivando dopo 8 anni di perdite sono stati per noi un motivo di grossa soddisfazione. Ecco, come avete fatto a tornare all'utile? Ricordiamo agli ascoltatori che gli Acciai Speciali di Terni, AST Terni SPA, sono di proprietà del colosso tedesco ThyssenKrupp. Sono di proprietà della società Thyssen, noi facciamo parte di una business area che si chiama Material Services. Uh-huh. Come siamo riusciti ad arrivare all'utile? Ovviamente facendo tante cose in diversi ambiti, rivedendo la politica commerciale, portando a compimento un percorso di riorganizzazione e ristrutturazione che è partito dalla firma dell'accordo fatto al Ministero con le organizzazioni sindacali e le comunità locali. E soprattutto fate acciai speciali ad alto valore aggiunto. Sì, noi facciamo la maggior parte della nostra produzione è acciaio inossidabile, quindi è la parte, tra virgolette, più nobile degli acciai. E prima non era così? No, diciamo che lo stabilimento ha sempre prodotto acciaio speciale o acciaio inox. In questi ultimi tempi abbiamo cambiato il mix di produzione per spostarci verso prodotti a più alto valore aggiunto e soprattutto verso una clientela che è composta più da utilizzatori finali. Quanti dipendenti avete? Oggi siamo a quasi 2.400 dipendenti, 2.378 per la precisione, più abbiamo circa 700 terzisti che gravitano ogni giorno all'interno della società per attività che abbiamo appaltato. Ecco, ma come mai per tanti anni le acciaierie di Terni perdevano, infatti si parlava anche di chiuderle, anzi alcuni pensavano fossero un po' come l'Alitalia, e perdevano perché? Allora, innanzitutto nel corso degli anni il mercato dell'acciaio è stato un mercato molto difficile, lo è ancora oggi, e quindi il non avere l'eccellenza o l'efficienza massima a livello di produzione, di servizio al cliente e di politica commerciale appropriata hanno creato una situazione economica e finanziaria molto, molto difficile. E come l'avete superata? Abbiamo definito in maniera radicale un cambio di passo per quanto riguarda ogni ambito nel quale operiamo, a partire dall'organizzazione della produzione, dove abbiamo adottato gli approcci della Lean Production, quindi le filosofie giapponesi originatesi dal Toyota Production System. Abbiamo cambiato l'organizzazione commerciale, abbiamo sfruttato e stiamo sfruttando il network della Material Services, che sono quasi 500. Quindi network ThyssenKrupp. Sì, network ThyssenKrupp, quindi che sono quasi 500 tra magazzini, centri vendita e centri servizi in giro per il mondo. Abbiamo aumentato, come accennavo prima, la quota parte di utilizzatori finali, che sono clienti che hanno un margine più alto all'interno del portafoglio che abbiamo, però ovviamente richiedono un servizio, quindi una puntualità di consegna, un livello qualitativo, una dimensione del lotto e un'innovazione che sono molto più spinte rispetto ai distributori o ai... E poi comunque non si è... giovata l'azienda della girandola di proprietari che c'è stata negli ultimi anni. No, beh, sicuramente quello è stato deleterio, anche perché, come puoi ben immaginare, un'azienda delle nostre dimensioni ha bisogno in maniera continuativa di scelte strategiche, di indirizzo, di investimenti, di attuazione di politiche di miglioramento che con cambi continui di proprietà non sono stati perpetrati in maniera idonea. Ecco, perfetto. Comunque, per capire che cosa sono gli acciai speciali di Terni come azienda e anche la girandola di proprietà che hanno subito, sentite questa scheda. Le acciaierie di Terni sono una storica e antica industria del nostro paese, creata all'indomani dell'Unità d'Italia per sostenere l'industria, l'elettrificazione e gli armamenti, e in particolare la costruzione di grandi navi da guerra. La decisione di fondarle fu presa durante il primo gabinetto Cairoli, su forte impulso dell'ammiraglio Benedetto Brin, ministro della Marina. Terni inizia a operare nel 1884, quando vi fu costruito il più grande complesso industriale dell'Italia Unita, denominato Società degli Alti Forni, Fonderie e Acciaierie di Terni. Una grande acciaieria, un reparto di laminazione, una grossa fucina, un grande maglio da 108 tonnellate costituivano il suo cuore. Dai suoi altiforni sono uscite, per esempio, le corazze delle più prestigiose unità della flotta italiana, la batisfera con cui Auguste Piccard effettuò le profonde esplorazioni marine, il contenitore sferico della centrale elettronucleare del Garigliano. Negli anni 30, sotto il fascismo, le acciaierie di Terni entrarono nella Finsider, insieme all'Ilva e alle acciaierie dell'Ansaldo. La Finsider faceva parte dell'IRI. Le attività cantieristiche navali, che avevano fatto la storia della società, furono scorporate e portate altrove, mentre Terni divenne il più importante polo della siderurgia nazionale. Nel 1962, la componente idroelettrica di Terni fu assorbita dall'Enel. Negli anni 60 vi furono importanti joint con aziende americane per la produzione di vari tipi di acciaio. Negli anni 70 vi fu un periodo di crisi. Negli anni 80 la rinascita. Terni si collocò fra i primi 5 produttori mondiali di acciaio inossidabile, leader nazionale nella produzione dei laminati magnetici, dei tondini per le centrali nucleari e di tanti altri manufatti. Negli anni 90 la completa privatizzazione con la cessione progressiva a ThyssenKrupp e varie traversie. Nel 2012 l'acquisizione da parte dei finlandesi di Outokumpu, annullata dall'antitrust europeo nel 2014, che obbliga ThyssenKrupp al riacquisto. Nel 2016 arriva sulla tolda di comando Massimiliano Burelli, che inizia un percorso di risanamento basato su importanti investimenti negli acciai speciali e metodologie Lean. L'esercizio 2016-2017 è quello del tanto atteso ritorno all'utile. Rieccoci in linea dopo la scheda con Massimiliano Burelli, che è l'amministratore delegato di Acciai Speciali di Terni. Parlavamo con lui della notizia del ritorno all'utile dell'azienda, anche un po' di come sta cambiando il mondo dell'acciaio, che è centrale nelle nostre vite. Poi devo dirla tutta: a noi di Fabbrica 2.4 l'acciaio ci piace. Ci piace l'acciaio, ci piacciono le fabbriche sono belle, ci piacciono i robot e ci piace l'automazione. Ci piacciono anche gli imprenditori che investono, perché le aziende vanno meglio, sono competitive. Se qualcuno ci mette i soldi per comprare i macchinari, per comprare le attrezzature, per fare la ricerca e sviluppo, per studiare nuovi prodotti. Ecco, e forse quello che manca nel racconto della motivazione per cui AST SPA è tornata all'utile è il fatto che voi avete investito, vero ingegner Burelli? Certo, abbiamo investito in maniera pesante, quindi da quando abbiamo firmato l'accordo al Ministero dello Sviluppo Economico dicembre 2014 ci eravamo impegnati a spendere, o investire più che spendere, 175 milioni. Sì, 175 milioni nell'arco di 5 anni e probabilmente supereremo questa cifra. Bisogna investire, gli imprenditori che non investono non sono imprenditori. E con questa riflessione non zen ma astoniana vi lascio un attimo alla pausa di avvisi sul traffico e speriamo anche un po' di pubblicità che ci fa vivere. Restate con noi. Fabbrica 2.4. Ecco ancora un pezzo di Acciaio, il film di Walter Ruttmann ambientato nelle acciaierie di Terni, che sono ritratte come sporche, assassine e sono quanto di peggio, una specie di inferno. Adesso dicevamo con Massimiliano Burelli, che è la D di Acciai Speciali Terni SPA, che la situazione è radicalmente diversa. Però l'immagine dell'acciaio è rimasta un po' quella dei tempi di Walter Ruttmann, ingegner Burelli? Ma diciamo che l'immagine dell'acciaio, o in generale l'industria pesante, è ancora vista con quello che in inglese viene chiamato NIMBY, no? Not in my backyard, che è bello averla ma non a casa propria. Invece è bello averla a casa propria. È vista ancora come in questo modo, ma perché motivo? Quale motivo? Ma è vista un motivo perché insomma noi le acciaierie o le grosse aziende ovviamente hanno un impatto ambientale che è all'interno di quello che è definito dai limiti di legge, però insomma produciamo vapore, produciamo rumore, produciamo polvere e quindi non siamo necessariamente un vivaio, e quindi è chiaro che la popolazione che vive nelle zone limitrofe sente la presenza dell'azienda nostra come quella di altri nostri. Però producete polvere ma non va nell'atmosfera. No, ma diciamo che in generale insomma noi abbiamo movimentiamo in ingresso e in uscita 1 milione di tonnellate, quindi c'è i treni, il traffico pesante, tutte le movimentazioni che ci sono all'interno dell'azienda, quindi insomma, sicuramente è una tipologia di attività che ha un impatto da un punto di vista sonoro, da un punto di vista psicologico più che altro. Psicologico è importante. Ma però comunque l'acciaieria è profondamente cambiata rispetto a quei tempi lì. Ma diciamo che l'acciaieria di inizi secolo scorso e l'acciaieria di oggi sono due mondi completamente diversi. Poi io tra l'altro sono un grandissimo fan dell'ordine e della pulizia, e quindi se adesso lei cammina per i reparti dell'acciaieria di Terni vede impianti bianchi, vede ordine, vede marcature di zone di deposito, vede visual management, quindi la vede molto simile a uno stabilimento automotive piuttosto che a un'acciaieria del secolo scorso. Il problema dell'acciaio in Italia o nel mondo occidentale è che deve confrontarsi con la sovrapproduzione cinese. I cinesi producono molto, abbassano i prezzi, producono in perdita e lo fanno perché da un lato vogliono controllare il mercato dell'acciaio. Purtroppo queste aziende di Stato che non devono produrre utili come le aziende cinesi, tante volte ragionano con la logica di avere la market share più larga possibile, piuttosto che con la logica nostra di avere gli utili magari in ogni trimestre, e poi anche perché l'acciaio gli consente di occupare gente e di risolvere problemi sociali. Comunque, morale della favola, i cinesi sovrapproducono, fanno crollare il prezzo dell'acciaio e questo mette in tensione tutti i nostri acciaieri europei e occidentali, giusto? Assolutamente corretto. Fortunatamente la comunità europea ha per alcune tipologie di acciaio, tra cui nel nostro caso il laminato piano a freddo, ha messo dei dazi antidumping che ci permettono di produrre anche materiali standard, commodity, nel cui caso non fossero stati presenti i dazi sarebbe stato impossibile. Comunque, sul mercato dell'acciaio, su quello che significa e quello che rappresenta, ascoltate questa scheda. Archiviato un 2015 da dimenticare e nel quale si è toccato il minimo di produzione annuale di acciaio, 22,018 milioni di tonnellate, peggior dato annuo dal 2010, la siderurgia italiana torna a crescere. Il dato si spiega con la ripresa del lavoro in Ilva e anche con una migliore congiuntura produttiva. L'acciaio infatti serve a tutti i tipi di industrie, dall'automobile alle costruzioni, dagli elettrodomestici ai cavi. Il 2016 si è chiuso, in accordo con le stime di Federacciai, al di sopra dei 23 milioni di tonnellate di output. Per la precisione, a 23,341 milioni di tonnellate. Si tratta di un dato superiore del 6% rispetto all'anno precedente e di poco inferiore ai risultati 2014. L'emorragia degli ultimi anni si è arrestata. Comunque, ci sono quasi 7 milioni di tonnellate d'acciaio perse dal 2011 al 2015. Gli acciai lunghi, nonostante le problematiche legate all'export in Algeria, lo scorso anno hanno registrato una produzione su 11 mesi superiore del 3,1% a quella dell'anno precedente, raggiungendo con un più 11,6% il picco di crescita proprio nell'undicesimo mese dell'anno, con 1,061 milioni di tonnellate. Per gli acciai piani, invece, i dati sono diversi. La crescita annua, grazie al recupero dell'Ilva, fa segnare un più 10,6%, mentre l'output di novembre si ferma solo a un più 6%, con poco più di un milione di tonnellate prodotte. E il 2017? L'inizio d'anno è stato moderatamente positivo per l'andamento della produzione siderurgica italiana. I primi due mesi dell'anno, secondo le rilevazioni di Federacciai, confermano il trend evidenziato alla fine dell'anno scorso. La crescita a febbraio è stata dell'1,2% per un cumulato nei primi due mesi dell'anno dello 0,8%. Il dato è positivo, soprattutto se confrontato con il meno 0,6% registrato a livello europeo. Considerando anche gennaio, il confronto con l'Europa cambia. In questo caso, il dato bimestrale italiano è in linea con un avvio d'anno positivo anche a livello continentale, cioè più 1,6%. Rieccoci in linea con l'ingegner Burelli, che è l'amministratore delegato degli Acciai Speciali di Terni. In questa puntata parliamo di acciaio e vorrei sottolineare che a noi l'acciaio piace. Viva l'acciaio, viva le fabbriche, viva i robot, perché qui c'è troppo in questo paese una mentalità anti-industria che va combattuta, perché quella che ci dà da mangiare è, nelle forme dirette o indirette, l'industria. Un concetto che è emerso da questa puntata, nella quale ricordiamo che Acciai Speciali di Terni è tornata all'utile, è che le aziende, un'azienda di acciaio come tutti gli altri tipi di aziende, devono investire, devono fare ricerca, devono mettere dei soldi dentro l'azienda stessa. Ecco, voi dicevamo avete fatto importanti investimenti, il piano è di 175 milioni, mi risulta circa 40 nell'ultimo anno. Investimenti per che cosa? Noi abbiamo la quota parte degli investimenti è divisa fondamentalmente in tre tipologie. La prima per migliorare le condizioni di ergonomia, ambiente, salute e sicurezza. Quanto avete investito per migliorare le condizioni? Attorno ai 5 milioni l'anno. Quanti incidenti ci sono stati nell'ultimo anno? Allora, nell'anno fiscale scorso abbiamo avuto 24 piccoli incidenti, che è stata la miglior performance di sempre. Quest'anno fiscale siamo a 9 in 7 mesi. Cosa vuol dire piccoli incidenti? Vuol dire il taglio, vuol dire una piccola slogatura, nessun incidente rilevante. E certo. Ecco, dicevamo degli investimenti continui? Gli investimenti, quindi dicevo, una quota parte va in ambiente a salute e sicurezza e miglioramento ergonomico, una seconda tranche è quella della quello che noi chiamiamo sustaining capital, quindi il miglioramento degli impianti che abbiamo in essere, e una quota parte va in nuovi impianti o nuove tecnologie. Benissimo. E dal punto di vista di Internet of Things, sensori, Industry 4.0, che cosa fate? Ma noi abbiamo sicuramente tutte le attività che hanno grosso impatto dal punto di vista della sicurezza. Ricordo a tutti che noi movimentiamo oltre 1 milione di tonnellate di acciaio liquido l'anno. E quindi... 1 milione di tonnellate di acciaio liquido all'anno. Pensate un po', amici in ascolto, 1 milione di tonnellate di acciaio liquido, sì? E quindi abbiamo tutte le attività che sono correlate con il metallo liquido, non so, abbiamo dei robot antropomorfi che fanno determinate attività, abbiamo un controllo remoto, quindi abbiamo un'automazione spinta proprio per tenere l'operatore lontano dal pericolo. In più abbiamo una quota parte di attività che abbiamo iniziato a implementare nell'ottica dell'Industrial Internet of Things, l'Industria 4.0, tipo la scansione automatica della superficie dei nastri per rilevare se ci sono difettosità e capire quali sono stati i cilindri di lavoro, i rulli che hanno creato il problema. Stiamo pensando attivamente a... Senta, ci restano 30 secondi. Dove vuole portare le acciaierie di Terni? Ma le acciaierie di Terni le voglio portare a diventare la miglior azienda al mondo nel proprio settore, riconosciuta per le performance di sicurezza, di qualità e di innovazione. La migliore azienda al mondo nel proprio settore, insomma, vast programma, direbbe De Gaulle. Sì, diciamo che l'obiettivo deve essere ambizioso. Ecco, purtroppo dobbiamo chiudere, saluto e ringrazio l'ingegner Burelli. Grazie a lei. Viva l'acciaio, viva le fabbriche, viva i robot. Arrivederci a domani, ore 13:10.